andare a ritirarmi la pensione mia e di mia moglie, e allora sono andato per quello e ho controllato anche il reddito, no? Le pensioni ci sono? Per quelli che ritirano da fuori sì, io ritiro dal banco, ma trovavo quella carta e la ritiro. E anche mamma quando da fuori? Dove gli avviso? Quell'affare, me lo dai quell'affare, quella capsula è più quell'affare che abbiamo discusso l'altro giorno. Bene, Trombisi. Deve rientrare mia moglie prima che si sta col cane. Come rientra mia moglie, vengo. Bene, aspetta, c'è quella capsula, devi dire, aspetta. Ma non mi sente. Cosa? Tu non mi senti? È il masso, Natale, ti sento. Eppure mi fa arrivare un microfono di l'Alan 48, quelli tutti neri in campagna, mi sembra che ce l'ho uno di quelli, gira da Sacco. Prova. Il capo schermato, andai tu. No, Natali, questa non lascia così gaccia, ma di cacchio la giù bussi, mamma mia, era gli occhi lenta, esita un attimino, ora aspetta, la cerco. E ho qua dentro, se non ci sono più, boh. Cazzo. Eppure la stagione occa per si anda chissà la capsula. Prima della partita, e non mi sono più. Mamma mia, c'ho un vizio di spostare le cose, io guarda, poi non mi ricordo dove le metto. Addirittura ho appoggiato, diciamo, un coltello bello, bellino, una patatezza, non la c'è più. E appoggiata sulla scrivania, boh, sparita, non ho sistemato come si è posta la scrivania, non riesco più a trovarla. Senti, lei brucia, è da guarda e mai ficcata, Addirittura io ne ho una di patatese, una fatta a mano, un amico mio, che ci sono anche le mie iniziali. E poi un'altra comprata, bella, cazzo, 12 cm di lama, cazzo, per dare una frusa, Se mi serve in cucina la uso, però ce l'ho sotto chiave. Forse c'è parte il gap, si va, ma di cazzo giù, che ci sta, vediamo un po', sto qua dentro. Cazzo, giramento di barco. Vedemi, forse sono qua, c'è bene. Forse mi l'avevi trovata. In un microfono normale, bene andrà, una capsula così. Assolutamente, no, perché vuole, come si dice, vuole alimentata. Questo si mettono i microfoni con la batteria 9 volte. Infatti la metterò in quello normale, in quello nuovo, mi dicevo pure verniciato, gigante vecchio, già di così, no, dove si va dentro la cazzola, graffiato lì. Signore, che il primo rigoso, ma come la metto, tocca con gli occhi. Che io ho fatto una ciabatta che ci aspetta la lucetta. Allora lascia vedere, vediamo un po', alimentazione qua, ah, ecco, lo zero e poi come si accende, ma che cazzo può essere, ah, ecco, lo zero qua, sì. Io vado a pigliare la macchina e vengo lì via, e poi devo lavare e devo uscire. Vieni a lavorare anch'io oggi, adesso chiamo il corriere tra un po'. Vabbè, là, sto arrivando. Hola. E me la sta lì, provando. Ehi, aspetta un attimo che sto provando una cosa. Hola. Così poco. Così da, te l'ho detto. Intende la propagazione. Vabbè, sta mettendo in pressione la. No, tra le nove. Ah, c'è lo spezzone allora. si era attaccato al computatore. Per farmi lo spezzone, capito? Vai, vai, vai. Aspetta un attimo, la salita, devo chiamare anche l'Inps, è un casino. Sentiamo dopo. No, lo stavo dicendo a mia moglie. Cazzo, parlando arriva a 4 watt, se no non arriva, 3 watt e mezzo l'apparecchio portante muta. È proprio malato, a vedere. C'è uno che fa ciucu ciu, mi sa che sta respirando male. E a cosa morire? Beh, quella cosa è arrivata, quella commissione. No, questo arriva sul tardi, capito? Di pomeriggio arriva, se lo chiamo io adesso, vai, faccio un appuntamento. A capa. Ciao Luca. Buongiorno Concetta. Buongiorno a te. Come stai? Bene? Sì, grazie a Dio. Sono contento per te, dai, meglio così. Signor, ma figura, ti voglio salutare. Sì, la vedo spesso, dai, su Facebook. Scrive spesso, buongiorno, saluta a tutti. Ehi, adesso, lascia qua, ma no, mi cambio e chiamo questo qua, se no magari mi dà appuntamento subito, capito? Non ce la faccio. Ci sentiamo dopo. La gara, fammi sapere. Hola. Hola, hola. Hola. Hola la cipolla. Hola, hola. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Avanti. Buongiorno al binario 10, buongiorno. Trasmettendo qua da Sassa di Bricoman per aspettare uno scarichino. Una gara. Io qua stazione fissa. Gava gava Luca, sei Luca giusto? Negativo, Natalino Alfa 1 da questa parte. Sempre da Sassari. Cava Rogero, Natalino, buongiorno e ben sentito. Buongiorno anche a te. Non ho copiato il nominativo. Giovanni Pirata. Ma Giovanni il Pirata, così. Cava cava Natalino, cava cava. Sì, con quella bicicletta lì che sta aspettando a scaricare. Gava gava, bicicletta con la coda. Vedi, quelli lì non li posso guidare, perché arrivo alla D. E chiava gava. E niente, dai, adesso aspettiamo qua, quanto l'attesa sarà lunga. Certo che è un macello adesso. Ah, ecco, il fatto del coronavirus e via dicendo, adesso tutta la merce che c'è in arretrato è tutta in ritardo e quindi qua si forma la fila, dai. Molti ne hai prima di te. Ho un sali, poi sto facendo passare un pisano, giusto per far passare il tempo. E poi gli tocca a me, dai, tanto c'ho lo scarico qui, bricco ma qui, e poi c'ho lo scarico da niente. Era qui 5 minuti fa, si è sensato, si è capito. Gaba, che di solito vi sento, vai, che io faccio sede a Porto Torres, dai, ogni tanto quando mi siedo in camion che devo fare delle cosettine o fare delle stampate per controllarmi ore, riposi e via dicendo, ogni tanto accendo, vi ascolto. Io sento sempre Eugenio, non so se lo conosci, che lui è al posto. Forse l'ho sentito ieri, se non mi sbaglio, lo stesso stavo facendo un controllino, mi sa che mi ha risposto, sì, uno da Porto Torres, non so chi era, magari era lui. Lavora lì al porto. Non lo so chi era, poi ce n'è anche un altro che mulla, però mi sa che va sempre sul 12, cioè si chiama Luca. Da Porto Torres. Luca si chiamano, Giova. Luca, è modulo su 12. Non lo so se l'avete mai sentito. Personalmente no, perché sto sempre sul 10. E non lo metto. Sono molto amico di Gigi Vulcano, non so se lo conosci. Gaba, e adesso è già da un po' di anni in pensione, dai. Gaba, non so se stia modulando ancora, non lo so, sono da parecchio tempo che non lo vedo, da quando è andato in pensione poi non l'ho né più visto e né più sentito. Entra raramente, infatti, raramente lo si sente, io sono molto amico di lui. Prima modulava di più, molto di più. Adesso da quando andate in pensione ha mollato un po', dai. Forse non ha occasione di usarlo l'apparato, perché modulava quando era con la macchina in giro. Sì, con la macchina aveva più opportunità di usarlo, vai. Lo usava dalla mattina alla sera, quando rientrava. Magari adesso sta facendo altro. Lo so, sono da un bel po' che non lo vedo e non lo sento. C'aveva quei baracchini modificati, con l'elicottero, faceva un macello nero. Come mi sta ascoltando di radio, questo è un omologato, il microfono normale, capito? Volevo sapere come mi stavi ascoltando di radio tu. Ah, ma il segnale mi arrivi quasi a no. Di potenza mi arrivi a qua. Cappa. Quindi la radio non è tanto per la quale, ma non puoi fare nulla con questo microfono. Mi ha omologato l'apparecchio da 4 watt. Cavolo. Ma da casa qualcosa si può fare, dai. Tanto non è che tutti stanno controllando ormai. A me invece mi devono controllare perché purtroppo disturbo le TV. Ehi, cava. Se disturbi le TV vuol dire che sei attrezzato bene, cava. Cosa attrezzato bene? C'ho questo omologato che è marcato CE, perché sennò adesso se non sono marcati CE non li puoi più tenere. La prima volta che sono venuti mi hanno sequestrato tutto, anche se era omologato l'apparecchio, non era marcato CE, è uscita una nuova legge e con quella legge lì devono essere tutti marcati CE. Sì, ma è una legge del cazzo, perché solo qua in Italia c'è. Perché tu guarda in America, da tutte le parti, cazzo, modulano a 40, 50, 100 watt. Cioè, perché cazzo mi devi rompere i coglioni? La legge italiana è tutta a modo suo, vai. Se lo trovano, può essere omologato alla vecchia legge, no? Perché il mio era omologato. Se lo trovano che non è marcato CE, se lo sequestrano e ti mettono anche la multa. A me così è successo, e perché è successo a me che te lo sto dicendo. Io avevo appena fatto la concessione nuova e non ne sapevo di questa legge e pensavo di essere in regola. Nulla. Mi hanno multato e sequestrato tutto. Vabbè, le solite leggi italiane, dai. Normale. Quando non è informato pensa di essere in regola, invece visto le cose è successo. Mi stavano portando via anche l'alimentatore, meno male che è marcato C e non me l'hanno potuto toccare. Cioè magari uno c'ha una passione, no? Non fai del male a nessuno, ti fai una chiacchierata, ti fai i tuoi discorsini ed è tu vai a... cioè veramente, uno ci spende tempo, soldi, poi arriva tizio, ti fa la multa, perché non basta che ti sequestra tutti gli apparati, tutto, ti fa anche la multa. Vabbè, normale. Normale amministrazione qua in Italia. Aspettando che vengano a controllare che tutto è a posto, in modo che mi facciano il verbale tutto regolare, e quelli là cambiano l'antenna, che hanno le antenne marce, perché la colpa non è mia, è loro che hanno le antenne marce, capito? Sì Natali, ma tu quando ti hanno suonato la porta che hai aperto, ti avranno detto siamo tizio, mi dici, dobbiamo fare un controllo. Quando vieni col mandato, chiudi la porta, ritiri tutto, nascondi tutto, e guardi, io ho questa radietta con questa parata, con un alimentatore, basta, non ho nient'altro. Dobbiamo sequestrarla, va bene, prenditi questa radietta, va. Hanno fatto, sono venuti con la polizia, vengono con la polizia, se non loro, quelli che devono controllare, non potrebbero entrare perché sono solo dei tecnici, capito? Prima quando ho aperto, che mi ha pregato pure perché c'era il portone aperto, io pensavo fosse mia moglie, apro la porta e me li sono trovati davanti e mi ha fatto vedere il tesserino, il tipo, polizia. Natali, sì. Il tesserino che però ci vuole il mandato, non puoi entrare tu a fugarmi da casa così come vuoi tu. Col mandato vieni e frughi quello che vuoi, senza mandato non frughi proprio niente, anzi ti avrei chiuso la porta in faccia. E anche a casa prima, ti ricordi quando giravano che c'era il... dovevi pagare la tassa. Sarai, no? Ogni tanto trovavamo la porta quando si poteva lasciare la porta aperta d'estate. Cazzo, me li ho trovati in sala, già entrando in cucina. Gli ho detto, scusi, dove sta andando lì? Dobbiamo fare il controllo? Sì, ma lei chi gli ha dato il permesso? Fuori da qua. Ma fuori, quando avete il permesso, avete il mandato, venite con la polizia e vi faccio entrare. Ma abbiamo visto che lei ha una televisione? Sì, ma la televisione non è collegata, non è un'antenna, vai. Ci me ne dai coglioni, veloce. Ma se vengono con la polizia, tranquilli, tranquillo che hanno il mandato, li devi far entrare per forza, capito? Perché poi se tu non li fai entrare, chissà cosa sono capaci di fare. Che capo. Quando arrivano con la polizia, sì, ma questo qui era da solo, era un tecnico. È venuto e ha detto, lei non paga, io non pago perché non ne ho. Abbiamo visto la televisione, sono entrato, innanzitutto gli ho detto se ne va la fuori, ma veloce. Se no faccio entrare il cane, quindi va la fuori per cortesia. Se ne è andato fuori e poi la verità non ci sono più tornati, perché poi, come tu ben sai, hanno collegato la bolletta dell'Enel con la RAI, quindi l'inculata la prendi lo stesso, vai. In un modo o nell'altro lo Stato italiano guarda, anche ridendo sto. Infatti quello che dà fastidio a me, cioè non stai facendo niente di male, stai modulando, ma se anche c'hai 100 watt, 200 watt, non disturbi a nessuno, perché cazzo mi devi rompere le scarpe. Lei va bene, va bene. Però purtroppo avevano la concessione in mano, i documenti che gli ha mandato Cagliari, evidentemente avevano già tutto in mano quando sono venuti, solo perché non era omologato. Ma te lo puoi immaginare, hanno controllato se disturbava la via, la televisione, hanno messo l'analizzatore di spettro a vedere se mandava fuori, che era omologato l'apparecchio, cosa mandava? Nulla mandava, 15 watt non aveva. Eppure me l'hanno sequestrato, il Rosmet, tutto quello che trovano attaccato all'antenna te lo sequestrano. Cazzo vuoi fare? Vabbè, ma tu volendo puoi fare anche a telecomandino, puoi modificare quello, te lo fai a telecomandino. Quando schiacci la portante per vedere l'uscita, c'è il telecomandino, schiacci in modo che resta 3, 4, 4. Quando se ne vanno riattacchi, dici a 10, 20 watt, quello che è. E purtroppo questo è digitale, manco la radio posso aumentare. È scomparso di radio per quello, perché non si trova dove girare per poter, non ne ho un schema elettrico, per sapere se c'è la LC, se non c'è il trimmer, per poterlo aumentare la radio, almeno la radio, già esce basso. Figurati, anche la radio non si può fare niente con questo qui, di quelli digitali, una scatola di fiammiferi, come quello che mi avevano sequestrato, era di quelli piccolini. No, io a casa c'ho un 48, appena modificato, c'ha canali sotto e sopra, più esce a 10 watt. Poi c'ho due president, c'ho un normale president da 5 watt e un Richard che esce a 50. Dovresti avere un omologato da attaccare all'antenna, perché se ce li hai staccati gli altri apparecchi, non penso che li possano toccare. Loro cercano quello che c'è attaccato all'antenna. Però a te ti hanno ritirato tutto, anche quello che non era attaccato all'antenna. Ma adesso io qua c'ho quello truccato, vai. Ma non me ne frega niente, dai, che cazzo, cioè non... è che a loro non gliene frega niente, capito? Si trovano, se questo non si mettono la mucca. Io non frequento bar, ne sto tutto il giorno a lavoro, e non me ne frega un cazzo, io l'ho lasciato a cazzo, poi facciano quello che vogliono. Secondo che apparecchio è, ma cazzo c'è, e lo puoi tenere. Quello lì cos'è? Un Alan 48? No, l'Alan 48 ce l'ho a casa, questo è quello che ti ho detto che esce a 50. No, ma questo ci vuole il patentino, vai. Ho capito, che apparecchio è. Vabbè. Non fai nulla di male. Oh, quando sono venuti c'era la pistola sul divano. Nella sacca, perché stavo tornando dal campo. Magari proprio di quello non gliene fregava niente. E loro fanno a colpire, cioè fanno a colpo sicuro, capito? Infatti era dentro la sacca, non si vedeva che era un'arma, no? Ma per dire, cazzo, se io ti voglio male, c'ho il fucile a pompa, la carabina, c'ho due pistole, non lo so. Minchia. Quando ti vogliono fare male, ti fanno male. Ehi, ma... Cioè, adesso... anche quelli che modulano, adesso che ogni tanto si apre la propaganda, c'era una bella propagazione giorni addietro, anche ieri qualcosina, avanti ieri era forte. Con quelli del canale 45 che dentro le cabine hanno di tutto e di più, come cazzo fanno a non trovarli quelli? Cioè quelli sono anche su YouTube, sono, cioè fanno meme. Lo so, anche Gigi aveva il 1200, l'ha dovuto togliere perché gli saltavano le marce, che lui aveva un Mercedes e ha dovuto mettere uno da 750 per non saltargli le marce, se no gli brincavano le marce. Perché la 1200, dimmi tu, è logico che pompano, quando c'è propagazione hanno di tutto e di più quella gente, già lo so già. Ma qua ti conviene fare, se ne compri un altro e lo metti con un deviatore di antenna, te lo colleghi lì. Quando senti suonare che non sei sicuro se è tua moglie o se non sai chi ti ha mandato un messaggio, deve venire al volo, lo stacchi e lo metti dentro le cassette. Quando sono loro, prego, quindi c'ho sempre questa parola. Questo non l'hanno visto ancora, devono venire a controllare. Questo omologato io gliel'ho detto, gli ho telefonato e gli ho detto mi può parlare, basta che sia omologato e marcato CE. Anzi, dica a quelli di chiamarsi un tecnico prima che interveniamo noi. Allora mi ha detto che io posso parlare tranquillamente se la stazione è a posto. E infatti a posto, ho pagato le 12 euro, ho rifatto la concessione nuova, perché sono stato un anno senza parlare quando mi avevano sequestrato il sito. Solo il rosmetro costava 150 euro, me ne hanno fatto di danno. Perché quel rosmetro era della Daiwa e non era, diciamo così, marcato CE. Quindi se lo sequestrano, non venuto a usare. Mi stavano portando via anche l'alimentatore, meno male che è marcato CE. E loro non l'hanno potuto toccare quello. Perché che sta parlando là dentro la chiesa? Ah, Natali, con chi stai parlando? Sembra dentro la chiesa. Giovanni, un amico che deve aspettare lo scarico lì da Piccomeno. Ciao Fla, buongiorno. Ciao, buongiorno. Mamma mia. C'è questo reverbero, sembra dentro la chiesa. Ciao, buongiorno. Adesso come mi senti? Nettamente meglio, guarda, toglierò quel, perché quello non è un eco, non è niente, proprio sembri che stai parlando dentro una tambullana, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Te lo dico, perché è brutto veramente da sentire, mamma mia, pensavo di dentro qualche chiesa, proprio un rimbombo, come quando parla il Papa, capito, la stessa cosa. Buongiorno, buongiorno, bella giornata anche oggi. Sì, al bricco, ma molta gente c'è. Ah, c'ho un Salis davanti, un pisano, e poi tocca a me, dai. Un movimento di gente c'è, di gente normale, dai, che deve comprare, un bel. No, sono nello scarico quasi di fronte al mercato, quindi interno negozio non ti saprei dire. No, scappo, mi serviva della roba, ma non ho voglia di scenderci. Buongiorno comunque, Claudio Sparviero da Sassari. Avanti Natali, riprendi dai, che vedo un po' cosa posso fare, se devo prendere il materiale, però non sono sicuro di scenderci se c'è troppa gente. Riprendi tu dai, già riprenderò poi. Ciao, ciao. Allora vediamo un po'. Buongiorno, buongiorno Claudio, buongiorno e ben sentito. Buongiorno, buongiorno anche a te, dai, ci sentiamo dopo, sono qua in quel RX che mi sto preparando per uscire. Gaba, gaba. Pure a me stai copiando, che ha potuto riuscire, copione. Oh, e lui, mi ha rotto le balle, questa mascherina, la mandava a fare un sacco di cose, mi ho le balle piene, mi sono passato a Roberto a portarle lo strumento che mi ha prestato, un alimentatore volante, perché io ho alimentatori grossi per fare quel lavoro ieri, e adesso vado andare a fare spese per lavoro, per casa, non si può, cazzo, con questa mascherina, una rottura di balle. Mi è venuto adesso Roberto a portarle nessuno di per un sistema del telefono alla figlia. E infatti stavo aspettando a lui in officina. Vabbè. Ho lasciato in ufficio, ma sono andato, se no i bugubiti. Ci sentiamo dopo, ragazzi. Buona giornata a tutti, dai. E anche io, là. Saluto anche l'amico lì, l'amico, non so se mi ascolta, avanti. Gabba Rogero, buongiorno e ben sentito. Se vi dicevo benissimo, forte e chiaro, Gabba. Ok, da questa parte Luca, stazione fissa, qua, Monte Rosello Alto, va bene, dai. Anche tu arrivi benissimo. Gabba Rogero, Luca, buongiorno anche a te, ben sentito. Claudio, ascolta adesso se sono dentro il monastero o dentro la chiesa. Dimmi tu adesso com'è. Gabba. Oh, Natali, Luca. Vabbè, qualcosa a posto? Sì, è a posto. Vabbè, se l'hai provato, è a posto, sì. Da vedere l'alimentazione. Canto è poco illuminato. Ce l'ho fatto io però, l'ho fatto io, gli ho messo i LED, tre LED sotto. Se no con la lampadina sua originale, era quelle, le classiche lampadine gialle, no? Bruttino. Gli ho messo quelle di lì e quella là l'ho eliminata. No, quella che spegne, sul tastino che c'è sulla destra. Lo abbassi, lo metti in off, lo spegni, se vuoi. Lo so, lo so. Però se lo spegni non ti misura il basso. La lampadina puoi spegnere, ah così è. Oh, strano. No, lo devi mettere per misurarti il basso, devi mettere uno in power e l'altro in effetto per poter misurare il basso. Lo spegni, togli l'FVD e quindi non ti misura e va. Yeah. No, vabbè, già è abbastanza dopo, già l'hai visto quanto costa, sì, ho fatto un giro, guarda quanto costa. Già lo so che costa. Ciao, andava, adesso mi presto, sentiamo dopo. Yeah. Natalino, ci sei? Yeah. Luca sono, dai, mi è arrivata la radio, come sto uscendo? Perché c'è il microfono normale. Aspetta, chi è? È a manetta, Natali, prova radio. Mattina di radio, Boh, detto che è vergine, è tutta tanta graffiata, dice nuova via graffica. Ma è nuova. Vabbè, ma la giù comparata. E la giù di qua. Se fanno vedere bene le foto, vabbè, tutta una tabina di grafica. Vabbè, non è vecchia, attenzione. Ma col stazionario sta scendendo niente. Non so come cavolo è, però, ma la bipi c'è, eh. C'è. Aspetta, guarda adesso se cambia. È uguale il bip. Natali. Ma il bip guarda se cambia, da così a così. Cambia? Quasi no. Adesso gli aggancio le MB più 4, dai, vediamo se va. Non devo andare. Ma ne sa cughi se pongo ghiscia. Ma mettili le MB più 4 per la differenza. Prova a parlare Natali, vediamo come ti ascolto. Sì, guarda, 1, 2, 3, prova, dai. Però sono col microfono normale suo, E fa un passaggio. 1, 2, 3. E qua arrivi più basso il segnale, 9,10, 9,20, da. Quelli sono a vari, da. Non è la stazione saldante, quella che avevi tu, Luca. Guarda, se non c'è bisogno proprio di fare le connessioni, com'è? È meglio? È meglio? Ero credo. Il microfono normale è sempre più basso, no? Ho capito. Andava bene, da. Prova, c'ha lo LED rosso dei canali, già è carino, là. Insomma non è che c'è nuovo, come ti ha detto, però. Di buona sacca vanno i ricovacchi a verniciattini, ma sai che è bravo verniciente, se lo sai verniciato, già. Ah vabbè, questi qua sono, Sì, vabbè, lo lascio così, non me ne frega niente. Infatti. Poi magari lo graffio per rompere il cazzo, magari. Se magari lo puoi prendere, lo puoi verniciare i tappi. Ma usa solo i singoli verniciati, in effetti. Io sono sempre del parere che la radio bisogna comprare sempre nuova. Poi bisogna vedere se c'ha la M aperta, quello lì. Ah, la differenza dall'altro, questo qua com'è? Quella c'avevo prima al typo, con questa c'è differenza? Questa è chiara chiara, la radio bella. Stavo dicendo, ma quanto ce l'hai le macchie adesso? La manetta è a 5, Natali, a 5. Allora va bene, lascialo così. È bella chiara la radio voce. Prova a parlare un attimino, Natalia, sono curioso per vedere se le bande sono giuste. Prova a parlare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, non è a canali, dai. Poi marchiato c'è, sì. Come marchiato c'è questo qua? Ah, sì, marchiato c'è. E beh, era solo originale, boh, sabili e luci. Anche il mio è marcato c'è. Io penso che rivendano tutti i marcati c'è. Quello lì, per avere i canali, devi spostare un jumper dalla posizione 2 alla posizione 3, lo devi mettere. Dice che non è stato mai aperto. Capito, Natale, dice che non è stato mai aperto. Anche quello è omologato, allora. Così è omologato, lo puoi tenere in casa come omologato quello. Non va in aprile uno, di banda. Capito? Che quello è come quello che c'ha Marco, che è omologato proprio, perché le bande non funzionano. Avrà anche la LC chiusa, sicuramente. Essendo omologato, se non l'abbia più nessuno, è sarrata. C'è da poco di grafica, c'è tutta una piena di grafiche, ma non si vedevano in foto, e vabbè ormai. E a chi sarà stato uno sbadato, uno sporcaccione, cazzo. Io se ne sapevo che te me l'avevo verniciato di tappi e boh, non l'avevo fatto. Boh, adesso lascialo così. Al limite, se lo vuoi aprire per le bande per poter andare sul 45, perché con quello non ci puoi andare, ti fai dire qual è il jumper da Marcolino e lo puoi spostare volendo. Tanto si può riportare a essere omologato e puoi aprire la radio, perché la radio è chiusa sicuramente lì, perché stai uscendo più basso di come esce Marco col microfono normale. Quando tu metti il microfono normale, Marcolino esce più forte, che abbiglia però la radio. Io ho capito. Ma è carina comunque, dai. E dai, sì, 3009 quello tutto col coso cromato, è davanti. E si conferma. Dai, è una bellissima radio. C'ha anche i così, come si chiama, i componenti che sono di modello vecchio quella. Non è digitale come te la mia. Questo è il modello vecchio, sì. Avanti, chi chiama? Chi è che chiama? Avanti. Mi senti? Ciao Robert, Luca da Sassari, dai, anche ti ascolto un po' basso oggi. Sì, se vuoi provare. Sono in AM, Natali. Claro. Luca. Sì, ho visto il jumper, dai, l'ho visto, l'ho aperto il baracchino, ho visto il jumper. Se vuoi che ti funzionano le bande, devi spostarlo, quello lì. Aspetta, che tu ce l'hai i canali, sì? No, qua no. Faccio 40 canali solo e omologato. Mi accorgi, perché tu come sposti la banda, la frequenza cambia, amico. Aspetta un attimino che lo sposto, questo jumper. Sposta il jumper e poi tu quando azioni la banda, per esempio se in mandatino, quando tu lo sposti in un altro posto, cambia la frequenza, te ne accorgi del frequenzimetro. Ma questo non è il frequenzimetro. Ah, giusto che non ce l'ha il frequenzimetro quello. Però se sposti la banda più su, per esempio, io sparisco, io parlo, no? Tu come sposti? Se io sparisco vuol dire che funzionano, perché ti sposti di 40 canali. Aspetta. Hai fatto per lui? Natalino. Luca. Luca, ci sei? 1, 2, 3, 4, prova. Natalino. Funziona, sta. Parla. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, Luca, mi senti? Voglio vedere se riesci. Devo sparire io. Sì, vabbè, poi non so come devo fare per andare nei canali alti. Non so come funziona, boh. Che banda è adesso? Qua c'è scritto DA. Che banda D? Prova ad andare in banda E. Aspetta un attimino che voglio vedere una cosa qua. Aspetta. Fai uno scatto a sinistra per poter andare sui canali di su. Poi basta che tu andi sul 5 e metti e ti sposti di una banda a sinistra e vai sul 45 direttamente. KK. Ah, e il bip com'è? Come l'altro? Bip di quell'apparecchio lì è il classico, da quello non si può regolare. Invece quell'altro si poteva regolare dal menu, capito, quello digitale. Lo puoi fare corto, corto, corto come quello colto. Ah, ho capito. Ah, comunque già va bene la radio, dai, bisogna regolare il trimerino sicuramente. Però ve le puoi fare con Marcolino, basta telefonarlo e glielo dici di entrare. Stavi parlando, Natali? Le prove le puoi fare con Marcolino, che ce l'ha uguale, e potete fare le prove, te lo dice lui come agire, però è come ti sto dicendo io. Che tassi che sta, comunque dovrebbe essere così. Con Marcolino e di entrare, che ti è arrivato un apparato che spiegarti un po' come funziona. Ah, sono la trombetta, chissà. Prova a chiamarlo, ce l'hai il numero. Però aspetta che si sia il telefono, lo chiamo, aspetta che può entrare. Scusate, per questo che non me lo ricordo bene la parola. Piello. Attenzione, Luga Luga. Attento, Luga Luga Luga, se ascolti. Mia, cava cava. Niente. Sta per entrare. Ok. Dice lui cosa devi fare. Tanto stamattina sono andato ad affusare ed era chiuso. Me ne sono fuggito. Nelle 9:30 adesso. Non ho capito, Natali. Si apre alle 9:30 fusaro. Me ne sono fuggito, me ne so. Ho capito. Stazione saldante tua, qual è? È la IUA? La mia? Adesso mi ricordo, la mia è la 952D. Non c'è, 992, 995. Perché te ne vanno così in basso? Se vanno basso? Santiago 9, sì, dove sei? A casa. A casa tua? E come mai? Adesso sono io però. E come mai Luca era così basso? L'hai notato anche tu? Qua vabbè, qua meno basso, però leggermente più basso del solito. Guarda adesso, Cla. Sì, adesso sì, adesso sei tu. 3009 sto provando, dai. Io. E come mai eri così basso? Non c'avevi antenna? No, ho messo... messo quel commutatore di antenna in mezzo rotto adesso. Lampazzino, vedi che ti rovina la radio. E faccio lo staccato, là. Adesso sei tu. Tu sono un idratato. Sì, Marco, ascolta, allora, per andare nei canali cosa devo fare? Quello è già di banda espansa. Sì, l'ho già spostato io il jumper, dai. Allora, c'è la manopolatone, il low, high low. Ah, ok, sì. Quando è in alto c'hai tutti i canali alti, dall'1 al 120. Quando lo metti in basso vai sui canali sotto, dall'1 sotto al 120 sotto. Allora, se io voglio andare a 45 devo sforzare tutta la manopola a destra, nella banda C, giusto? E basta. E mettere il canale 5. No. Tu adesso sei sulla banda A. Prova a muoverla sulla B. E B. E andiamo sul 50. Vediamo se funziona. Sparisci. Ah, ma io ho 40 canali qua. E come lo provo? Altro, non devi attaccare che vada. Cosa devo fare? No, sto dicendo, siccome io canali non ne ho qua, ne deve attaccare un altro, perché il suo è bloccato, quello di Marco. Oh, Lugaria, quanto ce l'hai il microfono? A 5, clà. Bella radio, vedi, Marco, cioè, adesso io non voglio dire niente a Gianni. Guarda quanto esce bene, Luca, col 3009 e con l'MB più 5, o più 4 che sia, guarda. Cioè c'è un abisso, capito? Boh, non lo so, ma è meglio dell'altro uguale più o meno, dell'altro baracchino. Molto più chiara e forte, molto più chiara e forte. E se te lo dico io tu puoi stare certo. Sto scendo bene, glielo ho detto anch'io che sto scendo bella chiara la radio. Adesso tu Natalì, senza, per carità, non vorrei che Gianni sia in ascolto, sembra che stiamo parlando male di lui. C'è un abisso dall'MB più 4 di Gianni, l'MB più 5 di Gianni a questo, usando le stesse radio, di la verità. Ehi, ma lui c'ha l'MB più 4, Luca. C'ha. Poi gli dà una voce diversa. Bisognerebbe che io abbia due baracchini qua, quello di Gianni e quello di Luca, e ci parlo io con tutti e due, così non ti la differenza se ce n'è. Ma cosa Gianni va un timbro di voce in offio con fronte a Luca? Non vuoi punire la radio di Luca con quella di Gianni? Questa è forte e chiara, bella come radio. Anche quella di Gianni non dispiace, adesso che ha modificato il microfono. Però, cazzo, Luca è scendito un servizio. Guarda, questo qua è il microfono originale, qua. Originale è proprio dell'apparato, no? È del President Boo Jackson, mi pare. Com'è? Un bel bello, anche la modulazione normale. No, Natalì, ti voglio correggere. Se io chiudo tutti i toni a Gianni, non cambia niente, è un MB più 4. L'MB più 5, toglietevi dalla testa, che in più del più 4 ha solo la regolazione dei toni. Sono due microfoni identici. Se tu chiudi tutti i toni lo usi come MB più 4, se tu ti regoli i toni lo usi come MB più 5, hanno la stessa capsula, stesso circuito, stesso tutto uguale, preciso, identico. Se io chiudo quello di Gianni, infatti Gianni usa i toni molto alti, a 7, 8, anche 10, se lo chiudi, quella modulazione è impressionante, funziona bene con i toni alti, mentre Luca, che sta usando un MB più 4 senza toni, è fortissima la radio, la tonalità è molto bella. Se tu li fai chiudere tutti i toni a Gianni, fa schifo. Si era già provato, si era anche mezzo offeso, io dico la verità, capito? Però non vorrei dire una stronzata, ma mi sembra che quello di Gianni moduli diverso, anche col microfono normale, non c'ha forza. Guarda questo che forza che ha col microfono normale, non lo so. Marco, tu che sei il re dei 3009, che per me è un baracchino uguale all'altri, che ne diciate voi, per me è un baracchino che non ha niente. Io preferisco più il Typhoon che quello lì, come bellezza. Cosa ne dici tu? Ho ragione o torto? Ho attaccato adesso, dai. Allora Luca, sposta la levetta delle bande di uno scatto a destra. Cos'è che mi hai detto? La levetta delle bande, spostala di uno scatto a destra. Ok, da. Vediamo un po'. Perché quello è diverso dal Typhoon. Natali, a me non mi disinuta il suo baracchino, io non voglio offendere a nessuno, ma per me è un baracchino come tutti gli altri. Non vedo questa grande modulazione, tutti i baracchini sono uguali per me, per la mia voce. Questo a Gianni sì, sta cercando di adeguarlo, di fare, per carità, va molto bene. Però secondo le modulazioni è meglio altri baracchini. Io la penso così, poi non lo so. Forse Luca c'è la modifica che gliel'avevo fatta io, mi sa, mi è modificato quello di Luca, l'MP4, non è normale. Io ne ho tre modificati, capito? Ma fatti con le controballe però, messo le resistenze, senza fare ponteggi e ponticelli. L'MP5 mio tira forte, a me me l'ha fatto Gigi Vulcano e c'è una resistenza, non un ponteggio. Il ponteggio lo fanno i muratori. L'ho fatto bene il microfono, il mio esce molto molto bene. Io lo tengo a due, amico, il baracchino, a due. Hai visto la radio di Vaggio, sì? Marco, ci sei? Marco? Fatto là poco fa. Il canale, io ho capito com'è, dai, canali come viene pronunciato in inglese, sono i canali alti, questi low sono i canali bassi, ci ho capito com'è, dai. Ma l'hai trovato quando siete andati nei canali alti? Sì. Allora l'altro canale è più alto ancora, no, lo stavo chiamando, non mi rispondeva. Tu è normale, anche nella potenza, no, low è bassa, HI è l'alta, no, HI... Io qua ho messo più tempo perché i canali sono diversi i miei. Oh, Massimiliano ti ascolta, non so dove sia Massimiliano, prova a chiamarlo. Massimiliano è nella zona di Meserios, certo che ormai già mi ascolta. Massimiliano, attento, bulldozer, cambio. Marco. Eia. Ti ho chiamato la banda più su, ma non mi sentivi. Ti ho detto che io ho i canali diversi, mi devi dare tempo. Ah, ho capito. Ma sicuramente vuole aperto di ALC anche, dai, vuole aperto un po'. Non so quali sia, se è il VR12 o il VR14, non mi ricordo. Non si vede nello stampato AMC, capito, non si vede bene. Ti mando lo schemino colorato, lo vedi subito. Le provate in FM. Va benissimo, va, se vuoi fare la prova, aspetta. Vieni a toccare medie frequenze, mi leggi prima. No, su tu candi nuda, là. Ok. Cioè, se io ti dovessi dire, Luca, vai sul canale, che ne so, 40 sotto, tu sapresti come fare. Praticamente devi mettere il canale 1 della banda... tutta a destra la banda, manopola delle bande, metti canale 1, perché lì non è fatto in modo diverso. Multimode 3 era più intelligente, proprio ti metteva meno 1, meno 2, meno 40, meno 80. Lì per andare sul 40 sotto devi andare che manopola delle bande tutta a destra, canale 1 e metti bande low con la levetta, capito? Capo. Vabbè. Cosa devo fare? Ma penso che, perché ho notato che mi sono ascoltato con l'altro e non spinge molto di modulazione col microfono normale. Ma appunto perché il microfono è normale. Ma c'è la mancanza di modulazione, mi capito? Ma fai bene Luca, il microfono normale fai benissimo, la grande. Ma e tu che microfono gli hai messo, Luca? Mi ha mandato questo microfono dalla Presidente. Bisogna vedere che capsula ha, magari non è un granché. Va bene. Che te devo dire? Potenza quanto è di watt? L'hai misurata? No. Niente, non l'ho misurato perché